Guardiamo impietriti, resti di pietra, curati in borghese, con scope di seta. Un bene culturale, protetto dalle leggi del capitale, copre il muro che divideva l'uomo libero e lo schiavo. L'uomo libero e lo schiavo. L'uomo libero e lo schiavo. L'uomo libero e lo schiavo. Se le volontà di tutti gli uomini fossero uniformabili, il muro risorgerebbe in un giorno o due. Se le volontà di tutti gli uomini fossero già state uniformate, non sentiremmo il bisogno di ricostruire il muro. Il desiderio che sintetizza il bisogno di ricostruire il muro per il muro. Per la stessa ragione del muro, il muro. Guardiamo impietriti, resti di pietra, curati in borghese, con scope di seta. Un bene culturale, protetto dalle leggi del capitale, copre il muro che divideva l'uomo libero e lo schiavo. L'uomo libero e lo schiavo. L'uomo libero è lo schiavo. L'uomo libero è lo schiavo. L'uomo libero è lo schiavo. L'uomo libero è lo schiavo. L'uomo libero è lo schiavo. L'uomo libero è lo schiavo. L'uomo libero è lo schiavo. Wo war ich zuletzt oder wie lungul? Wo war Reich soll er oder wie Lungul.